e anche in quella sera e mi suntammo chi con quattro storie, con tribal, due as e un ciudit. E ta cabanda me tuca de cantà, e anche morto è il nostro tram. Garrusti il troller e allora il sen ciudà, ma come un Crist desmentega. Il tentel passa e in tanze tira dre. I noster bernash punti noster bele. E se pegnanca pensa parla canta un quai carlet de de. A parla canta un guai carlet te despera, ma mi son un po' pirla per vesse perché no, quadreamo a cerca un carlet anche in piazza del dom, perché i carlet qui rusche niente fa pedem muri pedem stupa, ma pedem minga ma minga mai mula in semper lì sta calzo den. Si te sgagna la mor con ti padrone e dirigente, e anda giù in piazza per vusa, con te il carlet e il suffega, e anda giù in piazza per rusa. E sempre un quai bun che il dis niente la lì Carlet le morti in sci la classe insieme al so partì, ma mi gulvisi te sempre scomincia con tu un Carlet con ti me sì, te sempre scomincia con te il carlet, con chi mea.